Ed eccoci carissimi al nostro consueto appuntamento col santo curato d'Ars. E oggi vi dico subito, dobbiamo completare il capitolo intitolato Pazienza e mortificazione. E dobbiamo affrontare precisamente i due temi, i due argomenti più scabrosi del capitolo, per cui il biografo si è premurato di dirci esempi più da ammirare che da imitare. Ebbene, i due temi di oggi sono intitolati precisamente le discipline e i digiuni. Sono temi che in parte abbiamo già visto, vero? Ma ora ritornano proprio per trattarli separatamente e in modo sistematico. Dunque, cominciamo a dire col biografo che l'assiduità al confessionale, con le pene di cui era causa, gli sarebbe bastata per raggiungere un alto grado di perfezione. Ma attenti, era così avido di penitenza che tutto gli sembrava di poco conto e cercava le mortificazioni così come un altro va in cerca di piaceri. Ecco, ricordo di aver letto nell'Ufficio delle Letture riguardo a San Paolo queste mirabili parole di San Giovanni Crisostomo. Tratte da una sua omelia, dice San Giovanni Crisostomo, che Paolo se ne stava nel carcere come se stesse in cielo e riceveva percosse e ferite più volentieri di coloro che ricevono il palio nelle gare. Amava i dolori non meno che i premi, perché stimava gli stessi dolori come fossero ricompense. Perciò li chiamava anche una grazia divina. Ecco, si direbbe, carissimi, che anche il curato d'Ars era di questo stampo, vero? Amava più i dolori che le gioie ed era avido di penitenze. Però il Crisostomo ci fa notare che San Paolo tutte queste cose non le amava per spirito masochistico, è ben lungi da lui questo pensiero, ma le amava come mezzo ideale, insieme alla preghiera, per unirci a Gesù Cristo, per conquistare Gesù Cristo, nonché per sollecitare ed affrettare la conversione dei fratelli. Vi ricordo a questo proposito un passo molto celebre delle sue lettere, tratto precisamente dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, dove dice: quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose, onori, piaceri, eccetera, e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Poi dice poco più avanti: e questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. E chiude dicendo: non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Ecco, Filippesi 3:7-12. Ecco dunque lo spirito di mortificazione che troviamo nella vita di molti santi e che troviamo costantemente nella vita della Chiesa va visto in questa prospettiva, del meno per il più, del togliere qualcosa per ricevere molto di più, in definitiva per conquistare Cristo e la salvezza per noi e per gli altri. Allora qui facciamo qualche esempio di come il curato d'Ars ha vissuto praticamente questo spirito di mortificazione presente nella Chiesa fin dalle sue origini. Per esempio, si impose la penitenza di non odorare mai, di non gustare mai il profumo di un fiore, di non cibarsi mai di frutta, ed era ghiotto, e di non bere mai una goccia d'acqua, neppure all'epoca dei più forti calori. Non so come facesse a dissetarsi. Inoltre, se una mosca si fermava sul suo viso, vi restava a piacimento, senza venir mai disturbata da questo grande penitente, che approfittava di tutto, anche delle cose più piccole e significanti, per tormentare il suo povero corpo. Altri propositi che aveva fatto per vivere questo spirito di mortificazione erano i seguenti. Per esempio, quando stava in ginocchio non si appoggiava mai. Si era poi prefisso di non manifestare mai alcun disgusto, alcun dispiacere e di tenere segrete tutte le ripugnanze della natura. E così soffocò anche ogni sentimento di curiosità, fino al punto, per esempio, che non espresse mai il desiderio di vedere la ferrovia che passava a pochi passi, a pochi chilometri da Ars, e che gli conduceva ogni giorno così gran numero di pellegrini. La ferrovia era una grande novità per quei tempi, e certo lui avrebbe desiderato vedere il treno, che non aveva mai visto. Ma niente, si impose anche questa penitenza. Del resto quel treno l'avevano fatto venire lì apposta per lui. Poi dobbiamo dire, carissimi, che essendo un'anima innocente, amò patire per gli altri, e per 40 anni si fece martire per i poveri peccatori. Abbiamo già visto con quale crudeltà, fin dai primi giorni del suo ministero in Ars, si flagellasse a sangue per ottenere dalla misericordia di Dio la conversione del suo caro popolo, dei suoi cari parrocchiani. E sappiamo che l'effetto fu davvero felice, eh? Effettivamente i suoi parrocchiani si convertirono, ma anche quando vide i suoi parrocchiani convertiti assieparsi nella navata della sua piccola chiesa, non si ritenne dispensato dall'usare i suoi strumenti di penitenza. Intanto però le forze si consumavano, ed egli si vide costretto a usarli con minore frequenza e con più benità per il suo corpo, attendendo almeno, notate, fra le diverse flagellazioni, attendendo almeno che le piaghe si cicatrizzassero. Un sacerdote che si fermò presso di lui per tutto un inverno, con l'aiuto di Caterina Lassagne, fece una visita minuta e scrupolosa nella camera del santo. E cosa vi scoprì? Vi scoprì sotto la tenda, in capo al letto, una disciplina di ferro molto robusta. Disciplina è una specie di frusta di ferro, E fratello Atanasio, che più tardi fece la medesima scoperta, nota che quella catena portava tutti i segni dell'uso cui aveva servito. Ebbene, dovete sapere che questo terribile strumento di penitenza, chiamato appunto disciplina, un giorno scomparve, e Don Vianney non si diede pace finché non poté sostituirlo. Il medesimo fratello Atanasio aggiunge che il santo se n'era fabbricata un'altra con anelli di catena molto ordinari, capaci di intaccare la carne a ogni colpo. Dobbiamo poi dire che qualche volta si era raccomandato a diverse persone di comperargli piccole catenelle, l'uso delle quali, anche se non era dichiarato, veniva presto intuito. Ebbene, per una di tali commissioni si raccomandò un giorno a Maria Filià, che come sapete era maestra alla provvidenza, la quale però si rifiutò recisamente e decisamente, per cui fu costretto a ricorrere a un giovane che non era in grado di rendersi conto dell'uso che ne sarebbe seguito. Così pensò di poter ricorrere senza sollevare sospetti anche al maniscalco di Ars, Giovanni Picard, al quale ordinò una catena di ferro doppia, larga 4 o 5 centimetri e sufficiente a cingere il corpo. Il maniscalco, lontano dal pensare al vero uso cui doveva servire, accettò la commissione, pensando che si trattasse di cosa necessaria all'orologio del campanile che si stava riparando in quei giorni. Ma quando il giorno di Pasqua il curato si sentì male in chiesa e fu necessario portarlo nella sua camera, il maniscalco che lo aiutò a svestirsi scoprì la catena che cingeva le sue reni. se n'era servito come una specie di cilicio. Inoltre dobbiamo dire, carissimi, che alle braccia portava un braccialetto armato di punte acute, e vedendo i suoi movimenti, sia sul pulpito che all'altare, era facile accorgersi dei cilici e degli altri strumenti di penitenza di cui era coperto il suo corpo. E dobbiamo dire infine, carissimi, che uno di questi cilici gli aprì un giorno una piaga che destò molta inquietudine, perché avrebbe potuto causargli la cancrena. Facciamo una piccola sosta, poi passiamo all'altro tema, il tema dei digiuni. Beh, adesso, carissimi, passiamo a quest'altro argomento, e rimanendo però sempre in questa atmosfera piuttosto cupa, dalle tinte piuttosto scure, cioè dalle discipline, passiamo ai digiuni. E cominciamo a dire che in queste mortificazioni corporali, senza calcolare quelle morali, rendevano il santo sempre più debole. E ci si domanda come potesse ancora stare in piedi quest'uomo che viveva di quanto avrebbe fatto morire un altro uomo. Ricordiamo per esempio le penitenze che egli chiamò follie della giovinezza, col digiuno completo prolungato anche per 2 o 3 giorni. E gli storici si chiedono fin quando durò questo regime rigidissimo e proibitivo, e Caterina e le sue compagne pensarono che sarebbe cambiato nel 1827, quando il santo notificò a loro l'intenzione di prendere i pasti alla provvidenza, e ritennero che queste disposizioni gli venissero imposte dal suo lavoro e dalla sua debolezza. Ma disgraziatamente si ingannavano. Dovete sapere che, acconsentendo a prendere là i suoi pasti, non fece che insignificanti modificazioni alle sue abitudini, e soprattutto continuò quel digiuno che fino a quel giorno era stato ininterrotto. E qui, carissimi, possiamo tentare di descrivere il suo pasto a quei tempi, poi descriveremo il pasto negli ultimi anni. Di solito arrivava alla cucina dell'orfanotrofio verso mezzogiorno e trovava accanto al fuoco un piccolo vaso di zuppa o di latte, di cui si serviva immediatamente, senza prendere se non di rado tutto quello che era preparato per lui. Qualche volta invece, oltre la zuppa, prese anche qualche grammo di pane secco. Dobbiamo inoltre dire che per lungo tempo al mattino non prese nulla, e quando nel 1934 giunse la prescrizione tassativa di Monsignor De Vidi, Monsignor Vescovo, che vista la sua debolezza gli ordinava di fare la colazione, egli cedette e si adottò a bere un poco di latte, del quale si privava tuttavia nei giorni di digiuno. Fratello Atanasio dice di averlo osservato molte volte nella quaresima del 49-50-51 e di aver notato che non faceva se non un solo pasto al giorno. E pasto per modo di dire, come abbiamo visto. Invece talvolta lo si vide accettare dopo il pasto qualche particella di dolce, di cui si privò del tutto negli ultimi 2 anni della sua vita. Comunque, fino alla sua grave malattia del 1843, non prese mai nulla alla sera, notate. Ebbene, tale regime super austero fu un poco mitigato dal 54 al 59, gli ultimi 5 anni di vita, per ordine del medico che aveva creduto di dover insistere. E il santo allora gemeva dicendo: ora, quando vado a confessarmi, non mi trovo più così bene come prima. E si accusava di golosità. E allora, quali sono, carissimi, i suoi pasti succulenti durante questi ultimi 5 anni? Ce lo dice il suo confessore, sentiamo la sua testimonianza. Dice: ho assistito varie volte al suo desinare, servitogli nella camera dalle suore della provvidenza. Notate tutto quello che mettevano sul tavolo e poi quello che lui mangiava invece. Sopra un tavolo senza tovaglia vi era un piatto con legumi, alcune uova, un poco di carne, almeno nei giorni in cui era maggiormente affaticato, un po' di acqua, una bottiglia di vino e un pezzo di pane. Ecco, questo era ciò che veniva preparato dalle suore. Vediamo ora quello che in effetti lui mangiava di tutto questo ben di Dio. Continua il suo confessore. In meno di 10 minuti il suo pasto era finito. Mangiava in modo da non sentire il gusto degli alimenti e non prendeva mai carne senza avermi prima domandato il permesso. Ma ora attenti, dice, alla fine del pasto si ritrovava nel piatto ancora quasi tutto il cibo, perché il santo si era accontentato di bere un po' di acqua con pochissimo vino e di mangiare qualche pezzo di pane. E conclude, io ero vivamente colpito dalla sua estrema temperanza. Ecco, una testimonianza davvero allucinante, eh? Se pensiamo che sono gli ultimi anni di vita, quando era più affaticato, più debole, quando quindi aveva più bisogno di mangiare. E dobbiamo dire, carissimi, che una libbra di pane gli bastava per oltre una settimana, eh? Un giorno, dice un testimone, entrato nella sua camera, vide un piccolo pane, nel quale era stato fatto un buco, che poteva sembrare di un topo. Invece ne era stato staccato un pezzetto, col quale il servo di Dio si era sostenuto per buona parte del giorno. E venne il tempo in cui, per restringimento di stomaco, gli fu impossibile sopportare cibo in maggior quantità di quello che prendeva abitualmente. Dovete sapere che nei primi anni, quando c'erano delle riunioni ecclesiastiche e il pranzo era preparato al castello, egli mangiava discretamente, anche per non dare nell'occhio, vero? Presto però ottenne dal vescovo di essere dispensato dall'intervenire a queste riunioni e considerò la dispensa come un grande favore e un grande sollievo. Per ottenerla aveva detto che lo si attendeva al confessionale e che egli voleva accontentare i penitenti. Registriamo ora un famoso episodio. Siamo verso la fine della sua vita. La contessa di Garay afferma che in un pranzo, no scusate, questo è un fatto ancora precedente, poi ne vediamo uno quasi alla conclusione della sua vita. La contessa di Garay afferma che in un pranzo offerto dai conti di Garay a Monsignor De Vie, il vescovo volle vicino a sé il curato d'Ars e lo obbligò a mangiare come gli altri, per cui il santo dovette ubbidire e si sottomise. Ma ne ebbe però tale indigestione che si credette morisse. E da quel giorno il superiore lasciò che il santo continuasse il suo regime ordinario. Vale a dire il suo digiuno. Il suo stomaco, dice un testimone, non era abituato che alla penitenza e non sopportava nulla di più. Certo dobbiamo dire, carissimi, che il santo non imponeva tale regime anche ai suoi ospiti, vero o no? È ben vero che da principio anche costoro avevano trovato una tavola molto sobria, per cui si riteneva cosa prudente portare con sé un po' di cibo quando si andava da lui. Ma dal giorno in cui fu eretta la provvidenza, i suoi ospiti di passaggio furono affidati all'istituto. La sorella del curato d'Ars, Margherita Vianney, racconta per esempio questo fatto. Mia nipote, dice, nel giorno del suo matrimonio si recò a far visita a mio fratello, lo zio. In quel giorno egli diede ordine a Caterina Lassagne di preparare un piccolo pasto. Poi egli stesso si sedette a tavola coi parenti e, facendo un'eccezione alle sue abitudini, prese un poco di ogni vivanda. Miracolo. E un altro testimone dice, quando gli portavano legna, grano e altre provviste per la provvidenza, egli ci riceveva e ci trattava molto bene, ci dava qualcosa da mangiare e ci mesceva vino, insistendo perché avessimo ad accettarne. Alzava il suo bicchiere con noi, ma non beveva mai, nonostante la nostra insistenza. Beh, dovete sapere che dal 1854 in poi, quando vi erano riunioni ecclesiastiche, i pasti non si presero più al castello ma alla casa dei missionari. Attenti cosa racconta il fratello Atanasio, quell'episodio di cui ho già parlato prima, che si svolge al termine della sua vita. Dice, nell'ultima riunione, che si tenne quando egli era ancora in vita, molti preti presenti mi confidarono la loro soddisfazione per il desinare eccellente. Alla sera, quando Don Tocanier fece conoscere al santo la soddisfazione degli intervenuti, egli manifestò il suo compiacimento e disse: «È sempre così che bisogna fare. I confratelli devono essere trattati bene. Faceva così anche Don Balle a De Cuy, mia prima destinazione. Quando eravamo soli si viveva di quello che c'era e tutto era buono, ma quando veniva qualcuno era sicuro di trovare buona accoglienza. Ah, Don Balle, com'era, quanto era buono, quanto era buono». Eppure, carissimi, giova ricordare che mentre si consumava questo pranzo di cui parlava con tanta simpatia, egli, l'austero asceta, si accontentava di prendere poca cosa sulla rustica tavola della sua camera. E qui, carissimi, giova aggiungere, riguardo a questo argomento, una nota importante. Non si pensi che tali abitudini siano state a lui facili, Il conte di Garé, testimonio di un'esistenza così mortificata, afferma che per arrivare a questa eccessiva sobrietà il santo dovette sostenere con se stesso lotte terribili. Ma prima di chiudere questo capitolo sulle meravigliose mortificazioni del curato d'Ars, mi pare che sia molto adatto questo tema proprio all'inizio della Quaresima, lasciamo che dica una parola anche uno che potremmo definire specialista della penitenza, cioè un padre certosino, il quale, scrivendo a Don Tocanier qualche anno dopo la morte del santo, così si esprime. Dice: «Confessiamo che noi solitari, eremiti, monaci, penitenti di ogni regola, non osiamo seguire il curato d'Ars se non con lo sguardo della nostra cordiale ammirazione. Non siamo degni di baciare le orme dei suoi piedi o la polvere delle sue scarpe». E mi pare, carissimi, che queste parole in bocca a un certosino siano quanto mai significative, vero? Beh, da parte mia vorrei concludere ricordando che il digiuno rimane sempre, a quanto pare, un'arma potente nella vita cristiana, anche oggi. Potente sia per debellare il maligno, sia per strappare le benedizioni di Dio su di noi e sul mondo. Un'arma usata più o meno da tutti i santi, ma che oggi potrebbe essere usata anche solo per recuperare l'autenticità cristiana o anche solo per recuperare la salute fisica, che comunque si riflette sempre anche sulla salute morale. Gesù, come sappiamo, praticò anche lui il digiuno, specie all'inizio della sua missione pubblica, e disse chiaramente che se anche non era il caso che i suoi discepoli digiunassero con lui presente, con lo sposo presente, tuttavia, dice, verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, allora digiuneranno, Marco 2,20. Quindi la pratica del digiuno è contemplata e consigliata da Gesù Cristo, e praticata, anche se giustamente il Signore ci mette in guardia da un digiuno puramente esteriore, è fatto solo per essere visti, e quando digiunate non assumete aria malinconica, come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Matteo 6, 16, 18. Così abbiamo concluso, carissimi. E ci disponiamo subito, carissimi, come sempre, all'ascolto della parola di Dio. La liturgia della parola che verrà proclamata la prossima domenica, che è l'ultima domenica prima della Quaresima, domenica settima nel tempo ordinario, ciclo A. E sentiremo che questa liturgia è dominata dall'idea che dobbiamo amare anche i nemici. e che non dobbiamo opporci al malvagio. Iniziamo ascoltando la prima lettura dal libro del Levitico, siamo al capitolo 19, un famoso testo che poi Gesù riprenderà nel Vangelo. Dal libro del Levitico, il Signore parlò a Mosè dicendo: parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Ora, carissimi, dedichiamoci subito alla seconda lettura, che è tratta dalla prima ai Corinzi di San Paolo. Siamo al capitolo 3, dal verso 16 in poi, e sentiremo che San Paolo dice che il Tempio di Dio che siamo noi è santo. Noi siamo un Tempio santo di Dio. E veramente dice che di non crederci chissà che cosa, di non crederci sapienti, ma chi si crede sapiente si faccia stolto per diventare veramente sapiente. Ecco, ascoltiamo questa lettura tanto interessante e tanto utile. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Parola di Dio. E ora, prima di ascoltare il brano evangelico, vogliamo senz'altro unirci nel canto dell'Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, Alleluia, Alleluia. E ora, come già detto, ascolteremo quella parte del discorso della montagna che riguarda appunto l'amore ai nemici e che non dobbiamo opporci al malvagio. Siamo nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 5, dal verso 38 al verso 48. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Ora qualche breve commento a questa liturgia, nell'attesa poi di ascoltare il commento dei sacerdoti che vorranno chiamarci. Speriamo che ci sia qualche sacerdote nuovo, o se non altro che ha chiamato poche volte. Insomma, che non siano sempre quelli, perché altrimenti diventa una cosa un po' monotona. Ecco, io penso che il Vangelo di oggi, che ci comanda l'amore anche ai nemici, il Vangelo di oggi è quello che ci testimonia più di tutti che il cristiano deve essere una persona un po' speciale, vero? Una persona, diciamo pure, originale, che non vuol seguire l'andazzo comune, che non vuol seguire una morale comune, ma vuole in qualche modo distinguersi. E badate, questo non per essere originale a tutti i costi, vero? Tantomeno per il desiderio di farsi notare, di ricevere magari dei riconoscimenti, no? Delle benemerenze, delle medaglie, ci mancherebbe altro. Ma proprio direi per ubbidire alla coscienza che gli impone di essere figlio del Padre, perciò di imitare lo stile del Padre. E se avete notato, carissimi, questa giusta e santa originalità del cristiano viene fuori soprattutto da queste parole di Gesù, quando dice: se infatti amate solo quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Dunque, in qualche modo, il cristiano ha il dovere di essere originale. Ha il dovere di essere un tipo un po' speciale. E il cristiano vero, in qualche modo, fa notizia. Ossia, per il suo modo di comportarsi così diverso dal comune, si presta a essere un po' segnato a dito, diciamo un po' chiacchierato. E io dico a questo punto, carissimi, fosse vero, ma purtroppo, lo dico con rammarico, non mi risulta che ciò appaia molto chiaramente, non mi risulta, fosse vero. Eppure badate, da quanto mi risulta, dato che avvicino tanta gente, da quanto mi risulta, il mondo aspetta da noi questa testimonianza. Anzi, si direbbe che aspetta questa testimonianza proprio per approdare alla fede. E noi diciamo che il mondo è incredulo, questo in parte è vero, sì. Però mi sembrerebbe più giusto dire che il mondo, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non è incredulo per cattiva volontà, ma è incredulo proprio per difetto di testimonianza. È proprio perché non vede nei credenti quella testimonianza che vorrebbe vedere e che dovrebbe vedere. Ma questo vuol dire, carissimi, che il mondo, nella stragrande maggioranza dei casi, è prossimo alla fede. Questo è un dato molto confortante. Per cui noi, carissimi, dovremmo sentirci addosso una doppia responsabilità e perciò dovremmo metterci doppio impegno. E certo, e sì, perché abbiamo capito che dal nostro comportamento più o meno corretto dipende la salvezza nostra, ma anche la salvezza altrui, la salvezza degli altri. Cioè la salvezza di chi appunto vorrebbe credere, ma non riesce a vedere in noi quelle opere buone, no, di cui parla il Vangelo, che lo spingano a dar gloria al Padre che sta nei cieli. Dunque siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, per essere figli, perciò per essere imitatori del Padre vostro celeste, il quale pure si comporta così. In che senso? Nel senso che egli, nel concedere i suoi doni, non guarda se uno è buono o cattivo. Certo che lui non prova piacere nel vederci cattivi, vero? Ci mancherebbe altro, anzi ne rimane disgustato. E se perseveriamo nel male, sarà costretto un giorno a condannarci, sì. Però intanto, fino a quando non arriverà quella scadenza finale, intanto, egli fa sorgere il suo sole anche sopra i malvagi, oltre che sopra i buoni. E fa scendere la pioggia sul campo dei giusti, ma anche sul campo degli ingiusti. Ecco, vedete che qui Cristo si richiama proprio all'operato di Dio, allo stile di Dio, e ci esorta caldamente a imitarlo. Proprio per essere suoi figli, quindi suoi simili, suoi consanguinei, ai quali è stato trasmesso, diciamo, lo stesso patrimonio ereditario, lo stesso codice genetico, cromosomico. Ecco, fermiamoci un attimo adesso, carissimi, per riflettere su queste prime cose che abbiamo detto. Ma se voi ci pensate bene, carissimi, noi abbiamo tanti altri buoni motivi per agire così e per essere quindi un po' speciali. E il primo motivo in assoluto è il seguente, del resto in continuità col precedente. Cioè dobbiamo amare anche i nemici e non covare odio nel cuore per essere buoni fratelli di Gesù Cristo, il quale per primo, essendo il vero e unico figlio di Dio, unico figlio diciamo naturale, a differenza di noi che siamo figli adottivi, il quale per primo ha manifestato al mondo questo amore smisurato del Padre, perdonando anche i nemici, anzi morendo addirittura per i suoi persecutori. Esattamente quel che dice San Paolo in Romani 5:8, quando dice che Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dunque Cristo è morto non per degli amici, ma per dei nemici. Ci abbiamo mai pensato? E lo dimostra chiaramente quando già appeso alla croce, quasi agonizzante, dice: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E in quel momento di chi parlava, carissimi? Parlava sicuramente anche di noi, vero? Sì, perché tutti in fondo l'abbiamo crocifisso. Per cui è inutile scagliarsi tanto contro i giudei, che furono gli esecutori materiali di quell'ingiusta sentenza. Ma siamo tutti responsabili di quella morte. E quando Gesù dice al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso, anche qui parla senz'altro di noi. Parla a noi, oltre che al buon ladrone di Isma. Sperando di avere tutti il coraggio che ha avuto lui, il coraggio di dire col buon ladrone, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Dunque Gesù ci insegna il perdono, con la parola e coi fatti. E il suo amore ai nemici non solo lo porta a pregare per chi lo perseguita, ma addirittura lo porta a dare la vita per chi lo perseguita. E chiediamoci, carissimi, nel Vangelo di San Giovanni, Gesù cosa ci dice? Cosa dice a noi a questo riguardo? Ecco, se voi aprite Giovanni 15:12, Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Dunque lo stile di Cristo diventa per il cristiano norma di vita: amatevi come io vi ho amato. Sì, è vero che l'amore al prossimo è raccomandato anche nell'Antico Testamento, sì. Ma ci si dovrebbe chiedere, nell'Antico Testamento chi era considerato prossimo? E dobbiamo qui senz'altro rispondere, era considerato prossimo solo chi apparteneva al tuo popolo, o meglio ancora al tuo clan, alla tua famiglia. E sussisteva, all'interno di questo popolo, sussisteva la famosa legge dei circoli concentrici, no? Per cui più ti allontani dal centro e più si indebolisce l'idea di prossimo. E quando poi varchi il confine ideale della tua patria, del tuo popolo, ecco che non hai più davanti a te un fratello ma un nemico, uno che tu perciò devi guardare con sospetto, perché costui è appunto un ipotetico nemico del tuo popolo. che ha in sé soprattutto il potere di far deviare il tuo popolo dal retto cammino, dato che lui crede negli idoli vani e costituisce perciò un pericolo prossimo di comunicarti le sue stesse idee, la sua stessa religione pagana, e quindi di farti naufragare nella fede. E dicendo questo, carissimi, abbiamo capito che dobbiamo andarci piano a giudicare male l'Antico Testamento. Dobbiamo sempre ricordare che anche la legge antica, come la legge nuova, ha Dio per autore, vero? Perciò non potrà esserci contraddizione sostanziale tra Antico e Nuovo Testamento. E anche l'odio ai nemici, se mai lo trovate nell'Antico Testamento, aveva le sue buone ragioni, che sono poi le stesse ragioni per cui anche adesso esortiamo, per esempio, a evitare chi dà scandalo, ossia chi ci è occasione di peccato. Ma ora, carissimi, dobbiamo vedere altre due buone ragioni per cui dobbiamo amare tutti e anche i nemici. Abbiamo già visto le ragioni principali. Dobbiamo amare tutti e anche i nemici perché Dio ama tutti, perché Cristo ha amato tutti. Adesso vediamo altre ragioni, altre due ragioni, la prima delle quali ci viene suggerita dalla seconda lettura, quando dice: santo è il Tempio di Dio che siete voi. E non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ecco, queste parole le intendo soprattutto in questo senso, cioè nel senso che ogni uomo, amico o nemico, porta in sé l'immagine di Dio. Ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E questa immagine non la perde, non la può perdere. Può perdere la grazia di Dio, la grazia soprannaturale, ma l'immagine di Dio che ha in sé non la può perdere. In nessun modo. Neanche per ipotesi trovandosi un domani, speriamo proprio di no, trovandosi nella situazione di dannato, di dannazione. Ecco, anche il dannato porta scolpita dentro di sé l'immagine di Dio. Dunque Dio ci ama tanto, perché vede in qualche modo, più o meno fortemente, scolpita in noi la sua immagine, si vede come specchiato. E perché noi dobbiamo amare ogni uomo? Perché dobbiamo tanto rispettare ogni uomo? Anche quando nascesse deforme, per esempio, comunque nascesse handicappato, o quando si abbruttisse moralmente? Ecco, dobbiamo amarlo e rispettarlo perché egli, malgrado tutto, porta impressa nel suo intimo, nel suo interno, l'immagine di Dio. E se io profano o comunque non prendo in considerazione questa immagine, io mi metto automaticamente contro Dio. E vado e mi scaglio contro Dio. Ecco perché Gesù ci comanda la violenza, carissimi. Fino addirittura a porgere l'altra guancia piuttosto che vendicarsi. Ecco, proprio per il rispetto che dobbiamo all'immagine di Dio impressa nell'anima del fratello. Badate, era già tanto dire occhio per occhio, dente per dente, era già tanto. Nel senso che questa norma giuridica, la famosa legge del taglione, no? Era un primo passo per liberarsi dalla cosiddetta vendetta privata. Se qualcuno mi fa del male, io non devo vendicarmi così arbitrariamente, facendomi giustizia da solo, ma devo sottoporre questo mio legittimo desiderio di giustizia all'autorità costituita, la quale poi deciderà in merito in modo equo. Ecco, questa era in sostanza la legge del taglione. Però capite che Gesù qui vuol farci superare anche questa logica umana della stretta giustizia. Esiste qualcosa di più grande, esiste qualcosa di molto più grande. Esiste una giustizia superiore, una giustizia, si direbbe, sovrumana, che si vendica perdonando, che si vendica amando e perdonando. Ed è questo appunto il tipo di giustizia che ci fa partecipare alla signoria di Dio, che ci rende veramente signori come Dio e che ci fa vincere ogni battaglia. Ma poi, infine, carissimi, c'è anche un'ultima ragione per cui dobbiamo perdonare, ed è una ragione così importante che forse andava detta per prima, eh? Cioè, devo perdonare perché anch'io sono peccatore e anch'io ho bisogno del perdono. Del perdono di Dio, ma anche del perdono del mio prossimo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se perdoniamo, saremo a sua volta perdonati. Viceversa, se non perdoniamo, Dio non ci perdonerà. Per cui i difetti, il male del fratello, devono apparirmi sempre solo come una pagliuzza confronto ai difetti e al male che ho io. E se bado a questo mio male, sarò certamente portato a una maggiore indulgenza verso il fratello. E i suoi difetti, e compreso il male che mi ha fatto, li saprò vedere sotto un'altra luce. Concludendo, carissimi, dobbiamo perciò chiedere al Signore di farci partecipi del suo amore, del suo modo di amare, che tutto dà e nulla chiede, e così incamminarci verso quella perfezione che Lui stesso ci comanda. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.